24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. Quanta corruzione c'è nel mondo, è una parola, se noi la studiamo un po', è brutta, perché una cosa corrotta è una cosa sporca. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Nella mente la sua croce. Un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, spuzza. Dove tutto il mondo, Francesco, porta la pace, la gioia, l'amore. Sono tutti di guarda qua, sorelle, dopo, e queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? Un sorriso, una carezza. Vabbè, ma io vorrei ospitare, perché il Cardinal Sepe non si sveglia con noi alle 6:30 del mattino e non ci regala qualche cosa in napoletano, L'immagine è questa, l'avete vista? Le suore di clausura alle quali il cardinale ha dato l'autorizzazione per uscire dalla clausura per andare da Opapa. Che si avvicinavano al Papa, no? La faccia di Papa Francesco, non ha mai visto così tante pretendenti in venti addosso. Vabbè, chi ci sono de clausura, figurarsi se non erano de clausura. Cardinal Sepe, questo era il Cardinal Sepe. Allora, come siamo ecumenici oggi a iniziare con questa bella canzone. Alle 6:31 minuti, questo è 24 mattino, è la 99esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Dai che Benigni ce la fa, dai che Benigni ce la fa, è 15 anni che ha fatto questo pezzo, 15 anni, forse 20, dai che ce la fa. 99esima settimana decisiva per la riforma elettorale, siamo quasi a 100, ve lo ricordate? Ok, il prezzo è giusto, 100. Anche per l'abolizione delle province. Ieri ho scoperto su Libero, ci raccontano che le città metropolitane che sostituiscono le province si dovranno finanziare con 2 euro di tassa per i biglietti aerei e i viaggi. 2 euro, i famosi 2 eurini miei, eccoli qua, track, buttati lì. Evviva, per finanziare le nuove province. Pensate come sono contento io. Allora, Lorenzo Nespoli in redazione, Il nostro Carmelo Lauricella ora in regia, puoi sfumare leggermente questa canzone, te ne sarei molto grato, sfumala così dolcemente, ti ringrazio molto Carmelo. Voglio subito salutare il grande Alessandro Robecchi, uno che questa canzone ce l'ha nelle cuffie, la mette uno. Robecchi, buongiorno. Sì, come sveglia anche. È come sveglia, è bellissima. Non mi alzo mai. Eccola lì, come sveglia è bellissima. Giornalista, autore televisivo, collabora al Fatto Quotidiano. È interista! Ed è un gol favoloso! La Sampdoria è in vantaggio al ventesimo del secondo tempo! Vabbè, questa è la vendetta di Milan. Vabbè. È pur sempre lunedì, ma c'è pur sempre l'Inter, ci sono notizie brutte e belle a inizio settimana. Cioè, è lunedì, ma c'è l'Inter, vedete voi, per tirarsi su di morale. Comunque, buongiorno. Buongiorno. Saluto anche il grande Federico Novella, che conduce Mattino 5 ed è... Ciao, buongiorno. Juventus. La terza, se ne va, grande accelerazione, rete, gol meraviglioso, ancora lui, non se ne può più. Fenomeno. Non se ne può più. Non se ne può più. Eccoci qua, non se ne può più, però mi sveglio sempre con il buon umore. Non se ne può più, non se ne può più. Anche il giovedì a volte, non se ne può più. A volte anche il giovedì, come va? Bene, bene, noi tutto a posto, siamo... Tutto a posto, grazie per aver fatto quella simpatica, affascinante musica, perché mi stavo addormentando al volante, stessa sul volante proprio, non è tangenziale, non era proprio il massimo. No, esatto, esatto, però sì. Ti abbiamo tirato su di morale effettivamente con questa corruzione, spuzza, va bene, dai, apriamo il Parlamento, su. Eccoci qua. Adesso pronti. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo nel nostro porto di mare. Robecchi, non lo so, che vuoi raccontarci tu? Oggi i giornali, è lunedì, quindi ci sono tante notizie diverse. C'è anche la prima volta che parla Vanessa, te la ricordi quella rapita sì, in Siria? No, certo, sì, parla sì, Repubblica, sì. Dice non mi pento di nulla, non mi vergogno di nulla, Sì, mi risulti è la prima volta che sento un rapito che deve giustificarsi di essere stato rapito, comunque. Sì. Vabbè, dai, sì. Ti ricordi tutti gli insulti, le robe. Sì, come no, certo. Quando c'è un debole in giro si insulta molto volentieri, no? Siamo in Italia. Eccolo subito, il difensore dei deboli, il comunistone Romecchi. Eccoci. Qualcuno, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo. Deve farlo, difendere i deboli. E poi, non lo so, parla per la prima volta Vanessa Repubblica, c'è la Pirelli che se ne va in Cina, cioè se ne va in Cina, nel senso. C'è Pisapia che se ne va in pensione. C'è Pisapia che se ne va in pensione, sì, però ragazzi, il Corriere ha fatto 4 pagine per il no alla ricandidatura di Pisapia, manco se fosse, se si dimetteva cosa facevano? 18 pagine. 18 pagine, è il giornale di Milano. È il giornale di Milano, bene, sì, effettivamente. Non voglio giustificarli. No, è il giornale di Milano. E poi c'è la corruzione che spuzza, hai sentito spuzza Federico molto, Novella? Sì, spuzza, è rafforzativo, mi piace questa S rafforzativa e soprattutto abbiamo scoperto questo talento del Cardinal Sepe che sembra uscito da una commedia di Peppino De Filippo, cioè, faccialo risentire, è una cosa meravigliosa. No, vabbè, dai, facciamolo recuperare il Cardinal Sepe che chiama le suore di clausura, ai quali ha dato il permesso, le suore di clausura non stanno più nella pelle di vedere il Papa e prima volta che escono vedono anche degli uomini. Guarda qua. Sorelle, dopo. E queste sono i clausure, figuriamoci quelle non clausure. Il Papa aveva una faccia come dire: sì. Ma dove sono? Dove mi avete portato? Esatto. Ma perché non potevo stare in Vaticano questo weekend? Però che il Papa ci abbia le gruppi come Mick Jagger negli anni 70 non è male. Sì, effettivamente, esatto. Sì, effettivamente. Mancava solo il selfie. No, il lancio di Reggiseni sul palco. sul palco sarebbe poi l'altare, adesso sì, Robecchi, capisco. Va bene. Capisco. Facevo il parallelo con Mick Jagger. Sì, vabbè, capisco che tu non frequenti tantissimo, si chiamerebbe altare quella cosa lì che è il palcoscenico per te, da dove il chitarrista e il bassista. Capisco. Comunque questo è amore vero, È amore vero, è amore vero. Allora, quanto siete difficili però, quando c'è astio allora eccoci astio, ci vorrebbe più amore, quando c'è amore allora non va bene. Ma no, ma noi, cioè, io guarda Federico, se vuoi ci... Io mi strapperei libero noi. No, ma infatti, Federico, io mi strapperei con te proprio, mi ruberei il Cardinal Sepe come editorialista del mattino. Ma anche commentatore calcistico. Sì, va bene tutto, sì, sì. Va bene tutto. Esatto, me lo vedo inviato per quelli che il calcio allo stadio a Napoli. Rigore, meraviglioso, il Cardinal Sepe. Vabbè. Comunque, guardate che la settimana riparte sempre dalle solite questioni, cioè lupi. Io non vi ho chiesto niente di lupi. Ieri c'è stata tra l'altro una Tiziana Litizzetto meravigliosa, da Fazio, ed è raro, perché insomma, intanto vabbè. Comunque, sentiamolo un po' la Litizzetto. In calza, una calza sola, no? Non in calza. In calza. Che tra l'altro è già stato indagato 14 volte e mai condannato. Quindi se la fa franca anche questa volta, dobbiamo segnalarlo a Gerry Scotti per lo show dei records. Vabbè, questo incalza. Sentite sulla raccomandazione. Legalizziamo la raccomandazione. Oh. Facciamo che ci deve essere la raccomandazione obbligatoria. Facciamo lavorare solo chi è raccomandato, solo amici di amici di amici di amici, anche della De Filippi, non importa. E vabbè, caro Robecchi, qui ripartiamo la settimana da Lupi, o meglio la fine di Lupi, adesso che ci sarà al posto di Lupi, ma siamo sempre lì. Ha fatto bene il ministro ad andarsene? Ma sì, sì, no, ma intanto io non credo che il ministro se ne sia andato perché ha fatto una scelta personale, politica, etica. Il ministro se n'è andato perché non c'erano le condizioni per restare lì, che in un paese con 42% di disoccupazione giovanile il ministro, cioè l'uomo di potere che fa una telefonata a un altro uomo di potere per trovare il posto al figlio, è una cosa che non piace a nessuno, sì. Non c'è destra e sinistra, sopra e sotto, di fianco. Cioè non piace a nessuno, perché se il paese fosse a piena occupazione forse nessuno direbbe niente, ma con un giovane a spasso su due questa cosa fa un po' arrabbiare, Sì, c'è da dire che allora su questo io ti seguo, ho anche l'impressione che in Italia si debbano distinguere le persone che fanno le raccomandazioni tra coloro che vengono beccati e coloro che non vengono beccati. Vabbè, questo come tutto anche, vale anche per i piromani, No, non siamo un popolo di piromani, però. Vabbè, no, tra chi viene beccato e chi no, è ovvio che c'è quella distinzione. No, ma voglio dire che lo fanno più o meno tutti, mentre non siamo tutti piromani, fortunatamente. Sì. L'unica differenza è che di alcuni sì, vengono beccati. Un conto è se a me tu mi chiami e mi dici: senti, ma conosci qualcuno bravo che devo fargli fare un lavoro? Io ti dico: ma guarda, sì, c'è quello lì che ha spasso, è bravo, è mio amico, boh, prova a sentirlo. Questo è un conto se io sono il figlio del ministro, ti do da fare dei lavori, quindi c'è un rapporto, diciamo, economico tra di noi, e questa non è più una raccomandazione, cioè siamo a qualcosa di più. Confine con la concussione. Ma diciamo, sentiamo un noto raccomandato, Federico Novella, lui sicuramente... Se io fossi Lupi andrei in Parlamento e farei come Craxi, direi: se in quest'aula c'è qualcuno, uno solo, che non ha mai raccomandato nessuno, alzi la mano e la storia si preoccuperà di dichiararlo spergiuro. No, o si preoccuperà di trovare un posto anche a lui, di farlo raccomandare. Ma un pochino, guarda che l'ha detto, cioè quando ha iniziato a dire: non augura a nessuno di voi che vi tocchino la famiglia, non augura a nessuno di voi, non augura a nessuno. Alla terza augurio, cioè, c'erano altro che lui che faceva le corna, erano tutti gli altri che facevano le corna. E resta il fatto che noi abbiamo 4-5 sottosegretari indagati che stanno ancora lì. Questo Renzi l'ha detto chiaro e tondo ieri in un'intervista a Repubblica: no, assolutamente non devono andare via i sottosegretari. Chiaro e tondo no, ha detto che non devono andare via, ma non ha spiegato perché. Ha detto, l'ha detto chiaro e tondo, assolutamente no. Ha spiegato detto che tu i suoi, lui è garantista. Ha detto che lui è sempre garantista, anche con Lupi. Con Lupi è stato un caso di opportunità politica, gli altri sono indagati, cioè sembra quasi che il difetto di Lupi è non essere indagato, come se essere indagati va a fa punteggio. Sì, a questo punto effettivamente forse un avviso di garanzia ti faceva comodo, perché poteva dire: non si va via. No, effettivamente, però la questione, come dice Robecchi adesso, poi Alessandro Cicci, era un po' diversa, cioè dire: non ho mai detto, non esiste una telefonata in cui io dica incalza ti mando mio figlio, e dopo mezz'ora veniva depositata una telefonata del genere. Il Rolex è una questione di opportunità politica. Se l'hai gestita male. E poi se mi permettete per 20 secondi di essere un po' politicista alla vecchia maniera, diciamo anche che NCD aveva un peso ministeriale troppo superiore al suo vero peso politico, e si sa che in politica in Italia questa cosa, come dire, non passa, può passare per un periodo, ma non basta fucilare Lupi, se il problema era ridimensionare l'NCD. No, si faceva l'impastino e basta, insomma, c'è bisogno di sparare Lupi, no, però prendere al balzo la prima occasione per fare un ribilanciamento, ovviamente. Ci sta dicendo che Renzi la sfrutta questa cosa, l'ha sfruttata. Ma mi sembra la grande. Tant'è vero che non credo che ci metterà un altro dell'NCD, no? Ma no, allora si parla di... Allora, oggi Renzi andrà da Mattarella, parlerà prima con il Presidente della Repubblica. Pare che non voglia mettere, queste le indiscrezioni di ultimi giorni dei giornali, oggi raccontano così, non voglia mettere un tecnico, quindi no Cantone, no Gratteri, ma voglia mettere un politico, perché dice quello è un ministero molto politico, in cui si fa politica. sono le grandi opere, eccetera. Quindi il nome ve lo dice adesso Robecchi, chi metterà? Davide, non è che no, posso il dirvi nome tutto. Non lo so, so che si parla di una cosa, peraltro già fatta dal vecchio governo Prodi, che fece rientrare in calza cacciato da Di Pietro, che era ministro delle infrastrutture. Si parla di uno spacchettamento tra trasporti e infrastrutture, in modo che si possano dare i trasporti a qualcuno dell'NCD, che comunque non è un ministero che cambierà la storia del mondo, e tenere le infrastrutture invece più vicino a casa, ecco, diciamo così, proprio perché è un ministero politico. È un ministero politico, vabbè, è l'ennesima fregatura di Renzi. Mettiamoci insieme che indaga la procura di Firenze. Novella, dai, montiamo su un caso, montiamo su un caso. No, indaga la procura di Firenze in tutta questa vicenda. Quindi perché proprio Firenze? bravo. Volevi sentirti dire. Bravo. Non Milano, non Bologna, ma Firenze. Dai, alimenta un po' di complottismo. Beh, attenzione, Robecchi, il Robecchi già il complottismo comincia ad attecchire. Complottismo che non è il mio stile, per carità, però una domandina io me la farei: come mai di fronte ad alcuni appalti anche Expo, che sono quindi sotto controllo, sotto la procura di Milano non si è accorta di niente, è dovuta arrivare quella di Firenze. Vabbè, ma perché parte dall'alta velocità lì di Fiorentina. Sì. Vabbè, sì. Vabbè, però vedi Federico, stiamo cominciando. Abbiamo lanciato il zacco. Grandi opere che piacciono tanto. Zac. Freccia. Tra l'altro segnalo oggi, rubo il mestiere a Milan, che tra l'altro oggi sul Corriere vedo una bella pagina su quanto ci è costato quel meraviglioso centro congressi alla Maddalena. Sì, l'ho visto anche io. 60 miliardi, abbandonato. Altro che 2 euro per le metropolitane, Milan. Abbandonato, è lì così, sta marcendo nel nulla, Forse Silvio lì qualche soldino dovrebbe sganciarlo, altro che oggettivo. No, dai, che già devi comprarci forse Ibrahimovic. A proposito, devo fare un appello pubblico, torna Ibrahimovic, se la Francia... Come? Ma guarda Milan, che io li ho tenuti tutti i tuoi tweet in cui via Ibrahimovic. È vero, sono un volta gabbana clamoroso. però attenzione, i tweet erano, se tu li vai a vedere, via Ibrahimovic e rifacciamo una squadra. È mancata la seconda parte. Ti devi dimettere per questione di opportunità. Esatto. Vabbè, comunque, quando si è alla disperazione e raschi il barile, sei disposto anche a fare volta gabbana. Quindi Ibrahimovic torna se lo gradisci. Intanto andiamo. Pensa al mio cuore come sanguinava ieri sera vedendo Eto'o. Ah già, è vero, Eto'o, ma ha giocato bene, io non l'ho visto. Benissimo, difensore, centrocampista, attaccante, manca solo che faccia anche il massaggiatore. Poi... Grande. Vabbè, grande Sampdoria. Ah, a proposito, preparate le palette, da 0 a 10 c'è da dare un voto di canto a proposito di Sampdoria al mitico Hervé Peretta dopo il traffico. 24 mattino. Questa me la segno, come cosa, come Troisi, me la segno. La morale è un'opinione, cazzo. Ognuno c'ha lo scheletrino nell'armadio, e allora se tutti facciamo schifo, abbiamo le zone grigie, allora tutto è grigio. E non c'è il bianco, non c'è il nero, che bello. Ma che bello, questa me la segno subito, fretto. Milan, ma come si fa? In prima media in Italia ancora si studia l'Eneide, la psicologia si potrebbe studiare, si potrebbero studiare tante cose, no, l'Eneide, ma è roba da matti. Milan, tu che sei un buonista italiano o un italiano buonista, sei contrario, vero, alla pena di morte per i terroristi che uccidono in quel modo in Francia, in Tunisia? Tu sei un bravo ragazzo, sei buono. Diamo loro la prigione, vero? Vero? 50.800 italiani seguono ogni giorno Alino Milan su Twitter. E ricordate, Alino Milan vi legge e vi risponde. Sì, per la verità sono 51.000 adesso, caro ascoltatore, non vorrei fare questa... Comunque sì, che palle, sono contro la pena di morte anche per sti mamma mia, ma l'avete capito o no? Ma Robecchi potrà essere contro la pena di morte per chiunque? Questo ti seguo fino alla morte, però fino alla pena di morte. All'ascoltatore che tra non dare la pena di morte e dare la pensione, c'è tutta una serie di c'è una cartina di tornasole con vari colori. colori, no? Sì, direi di sì. Vorresti dare la prigione a questo qui, come se la prigione fosse, come dire, un hotel a 5 stelle. Sì, vorrei dare la prigione. Beh, che male c'è dare la prigione a uno, insomma, Federico Novello. Perché ci resti in prigione? Sì, se ci resti, prigione, è chiaro. Ma io non lo so. Vorrei anche dire che la pena di morte è un kamikaze, insomma, è un po' un controsenso. Sì, esatto, la pena di morte è un kamikaze, effettivamente, sembra quasi una vignetta di Vauro. Vabbè, poi c'era uno che evidentemente aveva il figlio che in prima media studiava l'Eneide, ha passato un brutto weekend e voleva condividere con noi questa sfiga. Tanta solidarietà, diciamo. Tanta solidarietà, però. Pensa che è la millesima settimana che si studia l'Eneide. Sì, infatti, io mi ero incaponito questo weekend sulle tabelline e le divisioni con mia figlia, ma non è che odio la matematica. Per questo, caro ascoltatore, vorrei abolire la matematica o le tabelline. Sono cose che capitano. Però, allora, no, prima della paletta, che la concludiamo così, vorrei un giudizio sintetico da Federico Novella e Alessandro Robecchi su D'Alema. D'Alema che dà dell'arrogante a qualcuno. Voi capite che già questa è un... Vabbè, in questo caso, nello specifico, l'ha dato a Renzi. Federico, inizia tu. Poi cos'è che ha detto Renzi? Sembra una vecchia gloria del wrestling, sai, sì. Tipo un po', sai, quelli che un po' non hanno niente in cui... Sì, così ha detto Renzi, no? Sembra una vecchia gloria del wrestling. Ma Renzi di D'Alema? Renzi. Sì, Renzi di D'Alema. Sì. Ma secondo me sono cose quasi personali, secondo me. Il fatto che ormai comanda Renzi e qualcuno nel partito non ha ancora preso atto di questa cosa e allora si sfogano così, però secondo me è una lotta sotterranea personale che continua. Ma un po' è così, dai. I toni sono un po' da bar, ma dei bar peggiori delle periferie di Caracas, però, esatto. Robecchi, tu che dici? Sono due personalità. Un bello scontro tra un'arroganza teorica e culturale e un'arroganza invece praticata, diciamo così, giorno dopo giorno. Quindi sì, un bello scontro. Ha detto comanda, adesso Renzi comanda nel partito, ecco. Questa, la parola comanda, è una parola che una volta era estranea alla tradizione democratica del dibattito interno del partito, mentre invece oggi, esatto, c'è uno che comanda. Mi sembra uno scontro di due arroganze, una che l'ha praticata in passato e uno che adesso la pratica. Uno che l'ha teorizzata in passato e uno che la pratica pervicacemente nel presente. Come ha scritto qualcuno, dovremmo dar ragione a D'Alema in questo caso, se non fosse D'Alema. Esatto, effettivamente è un po' così. Va bene, le palette sono pronte, Ervi Peretta, non Robecchi, fai il bravo, non dargli zero per vendetta. No. Perché ieri vi ha battuto, obiettivo. Ieri Ervi Peretta. A rifalla che mi sono sbagliato. Perché era solo un pezzetto. Quale pezzo vuoi fare? Il ritornello? Tutte e due, il ritornello, no. Senza te, dove andrei? Dedicato a Mihajlovic. Senza te. È dedicato a mia moglie Emanuela. Dai, Robecchi, un voto. 0-10. No. 8 pieno, vabbè, per non essere accusato di aver fatto una vendetta. No, per carità. 8, ma dai, ma l'hai sentito? 8, bellissimo. Ti ricordi quando si diceva una volta i presidenti delle squadre di calcio sono i ricchi scemi? Almeno erano ricchi, però. Federico, un voto. Anch'io 8, tra l'altro se lo ascolti bene sembra quasi il cardinale Sepe, il tono di voce sembra più o meno. Federico, tu alle 9 di che ti occupi? Dai, che siamo in chiusura. Di Tunisia, le ultime sulla Tunisia. Anche alle 9. Noi alle 8:15 avremo anche il moderato Magdi Cristiano Allam con noi dalle 8:15. Allora, vi saluto, un abbraccio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, anzi cari debosciati, perché noi siamo qui in diretta dalle 6:30, ma so che molti di voi si uniscono da quest'ora con i vostri movimenti rallentati da lunedì. Ricordate che pur essendo lunedì c'è pur sempre l'Inter, c'è pur sempre l'Inter, ricordatevelo, perché a volte tira su di morale questo pensiero, pur essendo all'inizio della 99esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Molti mi scrivono che facciamo la centesima, una festa, ma organizzare una festa è un po' complicato, poi alla fine della prossima settimana è il venerdì di Pasqua, su dai, non siamo sobri. E 99esima settimana decisiva anche per l'abolizione delle province. Noi siamo qua, siamo qui, in attesa di capire se sarà una settimana importante e decisiva su questo fronte. Noi siamo fiduciosi, altrimenti scatta la settimana numero 100. Allora, inviteremo Paolo Cento a festeggiare la settimana numero 100. Oggi ci occuperemo del timore, dei timori dopo la Tunisia. Sapete che molti mi hanno scritto dicendo ho paura che l'ISIS attacchi anche qui, il Viminale, il Ministero degli Interni, cioè dice rischio emulazione. Che vuol dire? Ne parleremo con Magdi Cristiano Allam, ne parleremo con l'onorevole Khalid Shawki e con un esponente politico tunisino, Saad Ibrahimi. Questo dalle 8:15 e poi state con noi. Altre novità. Ora i giornali. Beh, intanto la novità, sì, c'è il nuovo sito di Radio 24, lì buttiamo dentro tutto, ho appena fatto anche un selfie, mi sono fatto un selfie prima della rassegna stampa, una roba orribile, metteremo lì foto, ci sono tutti i contenuti extra, tutte le nostre siglette, le forchielliadi, andate sul sito di Radio24.it, tutto rinnovato, e scoprirete tante novità. Intanto i giornali, da lunedì 23 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore apre così: fisco, record di modifiche, 4 novità ogni giorno. Beh, incredibile. Il quotidiano Repubblica anticipa una direttiva del governo contro la corruzione, dirigenti a rotazione, piano anticorruzione per le società di Stato, è un'anticipazione di Repubblica. Il Corriere apre invece su Pirelli, i segreti di una svolta, quello che c'è dietro l'ingresso di ChemChina, nuovo socio forte di Pirelli. Poi altre aperture, il Messaggero, il ritorno di Sarkozy frena Le Pen, sono le votazioni amministrative in Francia, con la Francia che va a destra. Il Giornale, la verità sui prezzi delle case. Mentre la stampa, Le Pen sfonda, torna Sarkozy. Come vedete, lunedì davvero ci si concentra su aperture di vario tipo. Voglio partire però dalla lettura di un'intervista. È la prima volta che parla. Ricordate Vanessa e Greta, rapite in Siria, poi liberate tra mille polemiche. Oggi Vanessa Marzullo parla per la prima volta pubblicamente, intervistata da Repubblica, da Paolo Berizzi. Io e Greta torneremo in Siria. Ma quanto fango contro di noi, da 2 mesi vivo in un guscio. L'appuntamento nel ristorante di famiglia Verdello, vicino a Bergamo, dice Vanessa: ho appena sentito Greta, ci vediamo sempre, questa storia ci ha unite ancora di più. Come va? Meglio. Sono trascorsi 68 giorni lontano da tutti, era giusto così, ne avevamo bisogno noi e chi c'è stato e ci sta vicino. In questi 2 mesi è come se mi fossi riparata dentro un guscio. D'altra parte provavo un po' di vergogna, non come la intendono tutti quelli che ci hanno buttato addosso, palate di fango, gratuito e stupido. L'effetto di quel fango sta passando, te lo togli via perché sai che è fango strumentale, nato più che altro da beghe politiche. La vergogna che intendo io, dice Vanessa, è un'altra, è andare in giro e vedere uno che ti guarda in faccia con l'aria di chi pensa: eccola, adesso è qua, beata, tranquilla, ma se non c'era lo Stato che pagava, se non c'eravamo noi cittadini che pagavamo, è una sensazione difficile da spiegare, ma io non ho alcun senso di colpa se non quello di aver fatto preoccupare le persone che mi vogliono bene e ovviamente anche l'Italia. Abbiamo ringraziato lo Stato, senza il cui intervento non sarei qui in questo momento. Non smetterò mai di essere grata a chi si è adoperato per farci liberare. Greta e io forse siamo state imprudenti, ma solo per inesperienza. però vorrei spiegare, e spiega perché è andata in Siria da volontaria della Croce Rossa, poi Croce Rossa Internazionale, ha aderito a questo progetto assistenza sanitaria in Siria. Siamo andate portando medicine, cibo, vestiti solo ai civili, ci hanno accusato di cose assurde come avere distribuito kit di salvataggio ai combattenti, abbiamo sentito e letto veleni di ogni tipo, affermazioni fantasiose, offensive, addirittura che avevamo storie coi guerriglieri, che eravamo in Siria per aiutarli, ci mancava dicessero solo che combattevamo noi. Evidentemente c'è qualcuno al quale il volontariato dà fastidio. Se lo fanno due ragazze giovani, ancora peggio. In quelle terre c'è di tutto: banditi, ricattatori, gente senza scrupoli. Purtroppo ci hanno rapito come hanno fatto con altre persone. 5 mesi con i rapitori è stato difficile, ma siamo state trattate bene, mai subito abusi, mai violenze, né ricevuto direttamente minacce di morte. Siamo stati fortunate e credo ci sia molta differenza tra come vengono trattati gli uomini e le donne. E poi parla ancora del fango, le cattiverie, tolte di dosso, ho ripreso gli studi, aiuto i bambini a fare i compiti, do una mano in trattoria e continuo a darmi da fare per il popolo siriano. Così parla per la prima volta Repubblica Vanessa Marzullo. Trovate tutto a pagina 25. Oh, questa è una di quelle belle notizie che vi mette di buon umore il lunedì. È il caro tariffe. Sergio Rizzo racconta dati della Confartigianato. Sapete un po' l'acqua? Ieri credo era fosse la giornata mondiale dell'acqua. Ieri. E oggi si scopre, dati Confartigianato, dal 2004 al 2014, in 10 anni, le tariffe dell'acqua sono aumentate del 95,8% in Italia. Un aumento monstre, racconta Sergio Rizzo a pagina 15 del Corriere della Sera. Addirittura triplo rispetto alla crescita dei prezzi di quel servizio registrati nella media dei paesi europei, dove la crescita è del 34,9%. Perché in Italia è aumentato più del triplo della media europea? Stando così le cose, il referendum del 2011, col quale 23 milioni di italiani hanno deciso che i servizi idrici debbano restare in mano pubblica, non è certo servito a calmierare il costo dell'acqua, anzi, più 98%. Nessun altro servizio locale ha messo in evidenza dal 2004 a oggi dinamiche di prezzi tanto sostenute, aumenti record rispetto all'Unione Europea. E nei 5 anni del federalismo Made in Italy, spiega ancora Confartigianato, le tariffe dei servizi pubblici non energetici, acqua, trasporti e rifiuti, sono aumentate del 25,9% contro il 13,3% del complesso dei paesi europei. Tutti questi dati che vi faranno certamente pagare con grande sommo piacere la bolletta dell'acqua li trovate a pagina 15 del Corriere della Sera. E poi, beh, vi segnalo uno straordinario intervista a Franco Battiato, per me è un maestro della musica, Franco Battiato, che compie 70 anni e parla al Fatto Quotidiano. Malcolm Pagani lo intervista, racconta anche la sua ultima disavventura, di cui c'è il video che gira in rete, c'è una caduta sul palco, la frattura del femore. Dice lui, c'era un entusiasmo, un certo fanatismo a bordo palco. Sapete che Battiato è uno che mantiene sempre una grande distanza, atarassia, freddezza nei confronti della gente, no? C'era un certo fanatismo, un entusiasmo impossibile. Pensate, c'erano 20 persone che lo volevano salutare a bordo palco. Cerco di ringraziare, durante la canzone tocco le mani delle ragazze in prima fila, mi prendono per il braccio, perdo l'equilibrio, inciampo, cado all'indietro, ciao Battiato. Una cosa allucinante. Poi mi sono fatto portare, questo è stato un errore nei camerini, questo ha complicato tutto con una sovrapposizione ossea. E perché l'ha fatto? E che stavo lì ad aspettare l'ambulanza sul palco col pubblico in sala a piangere il morto? Ma dai, c'erano 1500 persone, non era il caso. Vabbè, ma poi Battiato parla, come sapete, poi la prende alla lontana, parla dei tempi moderni, parla della nostalgia. È una grande intervista, devo dire, quella di Malcolm Pagani. Poi parla anche di politica, viene alle cose più terrene, ed eccolo qui: siamo entrati nel regno della vanità, dice Battiato, ci hanno fottuto. Prenda i politici di oggi, quando li osservo ho pietà per loro, mi sento male, santo Dio, ma da dove vengono, penso. Quando vedo gente incapace di spogliarsi della propria bestialità, soffro sempre, anche se è una bestialità in giacca e cravatta. Detto questo, aiuterei anche uno come Lupi, uno che mi fa schifo, o anche Renzi, anche Berlusconi, che è un mostro totale. Detesto i politici di oggi, ma non escludo possano cambiare. E allora perché li aiuterebbe? Perché siamo tutti uguali. È inutile dire quello è cretino. Non è escluso che una faccia di merda, un ladro, un delinquente, un giorno non possa essere illuminato da un'intuizione, redimersi e superarti nel percorso della virtù e della conoscenza. Sa qual è una cosa interessante dell'esistenza? La possibilità di elevarsi. Il fatto che qualcuno, un mascalzone, un assassino, guardandosi allo specchio, possa improvvisamente riflettere e dire: ma che cazzo di vita ho condotto fino ad ora? Succede, sa? Ed è più utile di una sciatta preghiera innalzata pigramente a Dio nell'illusorio tentativo di salvarsi. Secondo il calendario del bardo, l'uomo ha 7 possibilità di finire in zone elevatissime. Per certi parlamentari l'eventualità è oggettivamente tenue. Mai dire mai, però. Ecco, questo è Battiato. Voi capite che già questa intervista vi eleva. Comunque la trovate sul Fatto Quotidiano. Dai, siamo al momento del premio Mani sul Volante. L'articolo che ci fa... di questa giornata, tenete le mani ben strette nel leggere sul giorno che è successo, che una sentenza è andata finalmente a compimento, una sentenza di assoluzione, quindi pare una buona notizia. Una maestra a Milano era accusata di mancata vigilanza perché 2 bambini si erano spinti alle primarie, anzi alla scuola materna, e una bambina, la bambina Deborah, aveva spinto il bambino Roberto facendo cadere costui con i denti, la faccia contro un termosifone e si era rotto 2 denti. Accusata di mancata vigilanza, la maestra è stata assolta. Il fatto è successo 29 anni fa. 29 anni fa! La maestra c'ha 80 anni. I bambini sono cresciuti e si sono sposati, hanno fatto famiglia e la giustizia ha fatto il suo lento pede corso. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan è il chaparat dell'informazione. Il chaparat, certo. Se non siete di Milano del Nord, fatevelo tradurre da Lorenzo Nespoli, che è un brianzolo doc. Allora, molti sono già andati sul sito, la migliore è stata qualche giorno fa, mi ha detto: ma no, avete messo delle foto di Alessandro Milan, che adesso è talmente brutto che ho paura di aprire il podcast. No, vabbè, ma dai, fatelo, il podcast è meglio di quello che viene rappresentato dalla foto. O chi mi scrive: cosa sono le forchielliadi? Tutto rinnovato, ci sono gli extra, andate sulla pagina di 24 mattino, ci sono tante novità, gli extra, ci sono le forchielliadi, il meglio del meglio di quello che ci dice Alberto Forchielli, quando viene solo da noi in radio, solo da noi, ricordatevelo. E insomma, tante novità sul sito di Radio 24, radio24.it. ma torniamo alla politica. Beh, certamente la vicenda Lupi tiene ancora banco, l'inchiesta sulla corruzione, eccetera. Oggi Repubblica anticipa alcuni piani che sono nella mente del governo. La direttiva è questo, del Ministero dell'Economia, una direttiva che viene anticipata, come racconta Liana Milella da Repubblica, con il decalogo per la prevenzione della corruzione, soprattutto nelle società di Stato. Dirigenti a rotazione, stop ai condannati, questo è il titolo di pagina 2, la sfida alla corruzione in 12 pagine anticipate da Repubblica. Si applicherà questo decalogo che trovate a pagina 2 subito alle aziende non quotate sotto il diretto controllo del Ministero dell'Economia e tra qualche settimana, dopo un confronto con la Consob, anche alle società quotate. Parliamo di Rai, ANAS, Fondo Italiano di Investimento, Expo, Sogei, Eni, Enel, Finmeccanica, Poste, Ferrovie, che dovranno fare i conti con le indicazioni stringenti della famosa legge Severino, il decreto Madia e le nuove norme sulla trasparenza. Allora i 10 punti sono: piano di prevenzione, nomina responsabile anticorruzione, mappare a rischio, codice di comportamento, trasparenza via web, incompatibilità degli incarichi, rotazione degli incarichi dei dirigenti, divieto di assunzione di ex dipendenti, la tutela delle gole profonde, cioè i dipendenti che dicono ci sono dei casi di corruzione, li denunciano, e infine la formazione anticorruzione. Questi sono i 10 punti del decalogo anticipato a pagina 2 e 3 di Repubblica oggi. A proposito di lupi, chi sarà il sostituto? Racconta il Corriere che Renzi non vuole un tecnico, dice questo ministero è eminentemente politico, e quindi il titolo di pagina 10 del Corriere è un ministro politico alle infrastrutture. Racconta Maria Teresa Meli, no Nicola Gratteri, no Raffaele Cantone, che ieri peraltro è andato da Fabio Fazio, si è già sfilato. Ma un politico in pista di lancio c'è Del Rio, stavo dicendo Lupi, era chiaramente un lapsus, Lupi non più, Del Rio sembra lui, però vedremo. Oggi Renzi va a parlare con Mattarella, il capo dello Stato, e come ha detto lo stesso Renzi è da lì che escono i ministri. Intanto Alfano fa un'intervista alla stampa, no ad altre dimissioni, ma le intercettazioni vanno regolamentate. Il ministro Alfano dice, intanto ribatte a Salvini, senti chi parla, bella coerenza, lui definito da Tosi un caino. Comunque, l'NCD sta diventando un satellite renziano, no signore, meno che mai, risponde Alfano. In 12 mesi, nonostante la fatica di far sapere quel che facciamo al grande pubblico, abbiamo riformato la responsabilità civile dei magistrati, rottamato l'articolo 18, abbassato il costo del lavoro di 6 miliardi, facciamo le riforme costituzionali, siamo diventati un paese più moderno, e che facciamo? Ci ritiriamo proprio ora e facciamo saltare il governo? Ma non esiste proprio. Il Presidente del Consiglio non ha mai chiesto le dimissioni di Lupi, che spontaneamente ha deciso di dimettersi. Noi non chiederemo le dimissioni dei sottosegretari. Ieri in un'intervista a Repubblica Renzi ha detto i sottosegretari indagati non devono andare, assolutamente no. Non è un avviso di garanzia che stabilisce se uno debba andarsene oppure no. Sono garantista. In tutto questo, guardate, la politica, no, dibattere della posizione di D'Alema, no, D'Alema che dà dell'arrogante a Renzi, no, il dibattito nella sinistra del PD, no, c'è Claudio Velardi che è spesso nostro ospite, fa un'intervista al giorno, vabbè, lui qualche sassolino se lo toglie, continua a dire che non ha niente contro D'Alema con cui ha collaborato, ma fa delle interviste al vetriolo nei confronti di Massimo D'Alema. Ma lei si vendica, gli chiede Francesco Ghidetti. No, però dai, D'Alema, la vicenda di D'Alema rientra nella sfera della psicanalisi più che in quella politica. Vi pare possibile che uno si presenta dicendo io sono un extra parlamentare, vi suggerisco di fare così? Ma c'era da alzarsi e dirgli guardi, si accomodi, o addirittura portarlo fuori di peso dall'aula. Ma scusi, lei parla così e dice di non avere rancore. Ma lo ripeto, dai, mica è normale consigliare di essere uniti e intransigenti al tempo stesso. Comunque, D'Alema ora non è più un politico, la butta in caciara. Ma tornerà protagonista? Meglio se si dedica al vino. Ecco, Claudio Velardi, ex collaboratore di D'Alema, lo vede così sul giorno. E poi l'altro dibattito qual è della politica? Mamma mia, la Mussolini, le polemiche per Alessandra Mussolini, che ha detto in un convegno venerdì non so come è diventata deputata Nunzia De Girolamo, anzi lo so ma non ve lo dico, lasciando, come dire, trapelare qualche cosa di così losco. Ora ovviamente Alessandra Mussolini bufera sulla Mussolini, ha offeso Nunzia, lei intervistata da Repubblica dice ma no, che hanno detto, tutta divertita anche per il quarto d'ora di palcoscenico che i giornali le possono dedicare. Hanno detto che lei ha fatto battute sessiste, squallide. Io sessista? Ma si dovrebbero vergognare. Io ho detto solo cose in cui credo. Loro, quelli dell'NCD, sono e restano dei traditori attaccati alla poltrona. Lo scriva. Magari a qualcuno è sfuggito. Traditori. Che sessismo. Io mi riferivo al fatto che Nunzia De Girolamo era berlusconiana e poi ha tradito. Vabbè, e via. E questa polemica finirà nel giro di un quarto d'ora e alle. Intanto invece Pisapia, avete sentito, ieri ha convocato i giornalisti e ha detto: non mi candida sindaco di Milano. Il Corriere della Sera, che è vero, è il grande giornale di Milano, forse esagera nel dedicare quattro pagine a questa vicenda, una per dire che Pisapia non si candida e tre per dire ora chi saranno nel centro-sinistra e nel centro-destra i competitor per la prossima battaglia sindaco. Comunque, quattro pagine per dire che Pisapia non si candida e Renzi è un po' perplesso sui nomi che circolano della sinistra, cioè Fiano, Maiorino e Ambrosoli, vorrebbe forse uno della società civile, ma comunque stiamo parlando di una roba che succederà tra due anni. Salvini sempre sul Corriere, in una delle quattro pagine, che parla anche lui: forse sarò in campo, facciamo comunque le primarie. Quattro pagine per qualcosa che succederà tra un anno e mezzo. Mamma mia, mamma mia, è proprio lunedì, ma c'è pur sempre l'Inter, come Mauro Meazza sa. Mauro, buongiorno, come buongiorno, va? Buongiorno, buongiorno, sei contento? Ma che... insomma, dai, si fa quel che si può. Ed è un gol favoloso, la Sampdoria! Vabbè, dai, fai finta, scusa, era un'interferenza. No, stavo dicendo, sei contento perché noi siamo a 30 punti dalla prima e voi invece solo a 29, quindi... c'è da menar vanto, caro mio, da menar vanto. Sai com'è. Noi possiamo matematicamente recuperare, vince lo scudetto, sfida, forse. Una sfida proprio sul filo del rasoio con la capolista. Vabbè, volevo dirti, c'è meno da menar vanto del fatto che abbiamo superato le 100.000 uscite dall'Italia, soprattutto per lavoro. Lo trovi oggi sul Sole 24 Ore e ci sono molti sotto i 40 anni che se ne sono andati, hanno preferito andare altrove a cercare lavoro, per lo più anche si tratta di persone formate, cioè con un alto livello di istruzione, insomma, vanno per lo più verso Londra o anche verso la Germania, ma c'è tutto sul Sole 24 Ore, così come l'X scoprirai che tra IMU e TASI abbiamo superato i 25 miliardi, città per città, capoluogo per capoluogo, c'è anche la classifica oggi sul Sole 24 Ore. Ti invito così a meditare, se vuoi ridirla come serie mani sul volante, una specie di extra mani sul volante. E poi ti volevo anche segnalare questa particolarità: abbiamo visto, sai che si vota nelle regioni, tu parlavi del voto che ci sarà forse, ti vuoi candidare? No, perché potremmo fare una campagna per Milan a Milano, il cognome si presta bene. Risparmiamo sui volantini magari. Milan a Milano, sì, potremmo risparmiare sui volantini, o Milan per Milano. Milan per Milan. Anche. Va bene, comunque ti volevo dire che abbiamo guardato nelle leggi invece regionali per il voto, nelle sette regioni dove si va a votare, quasi tutte, perché uno non ha fatto a tempo, hanno modificato le normative prima di andare a votare, prima del voto, e talvolta, ma chissà, forse in un modo così che fa dubitare, ma noi non vogliamo essere malfidenti, ci limitiamo a dirti questo e a dirti di leggere Gianni Trovati appunto oggi sul Sole 24 Ore. Forza Milan, abbiamo già il Forza slogan. Milan, secondo me è uno slogan che ti frega metà della cittadinanza, però poi vedi tu. Vabbè, ci sarà uno spin doctor, non si usano gli spin doctor. Sì, esatto. Ecco. No, ti volevo dire che il lavoro invece sui giovani che se ne vanno è curato da Sergio Nava, che ben conosci e ben conoscono gli ascoltatori di Radio 24. Infine, ma insomma ultimo ma non meno importante, l'ISEE di cui ti parliamo nell'Esperto Risponde, le regole per l'indicatore della situazione economica equivalente, insomma il ricometro, è spiegato oggi sull'Esperto Risponde. E a questo punto, caro Milan, tu a meno 29, noi a meno 30, un derby veramente mesto, a questo punto mestamente traffico. Alessandro Milan, etichetta Rossoneri, il conduttore che crea un'atmosfera. Allora, l'atmosfera, cari ascoltatori. C'è chi mi scrive, allora andate sul sito di Radio 24, non è difficile, entrate sul nostro programma 24 mattino, lì scoprirete un po' di cose. C'è gente che mi dice: ho scritto il motore di ricerca, ma vai a vederti, perdi due minuti e vai sul sito, cerca 24 mattino, vinci il terrore delle mie foto esposte e poi vai avanti e scoprirete anche le forchielliadi, cliccate lì e incuriositevi. Allora, come detto, Pirelli entra Camp China, all'interno della società italiana, sarà il socio maggioritario della Pirelli. Oggi è una grande, grande novità dal punto di vista economico, aziendale, italiano e non solo. Oggi varie pagine dedicate a questo. Il Corriere della Sera racconta, pagina 12, come è nata questa partnership, come ChemChina ha approcciato 3 anni fa con il suo leader, il cinese Ren Jiangxin, 57 anni, e come si è arrivato a scalare, poi acquistare, diventare socio di maggioranza di Pirelli, anche se ci sarà l'autonomia dell'attuale squadra di vertice con Marco Tronchetti Provera, che è leader del gruppo da 24 anni, resterà al comando con la carica di chief executive e vicepresidente operativo. Vi segnalo Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, la storia di Ren, il re cinese della chimica, che iniziò dalle teiere, uno che ha vissuto la guerra ed è andato un periodo a zappare come tutti in Cina, e lì gli capitò di sapere che ogni anno 8 milioni di tonnellate di carbone venivano sprecate per le incrostazioni delle caldaie. E allora al giovane funzionario venne in mente di aver letto qualcosa di utile in materia, uno studio su un acido con particolari doti detergenti, una pratica che applicò ottenendo dal ministero un prestito di circa 15.000 euro, 10.000 yuan, e con 7 compagni fondò la Blue Star, azienda per la pulizia chimica. Iniziò a pulire le teiere dei cinesi nella povera provincia del Gansu, 20 centesimi di yuan a intervento, ma visto che funzionava l'azienda passò a ripulire caldaie e poi gli impianti industriali, compreso il poligono di lancio del progetto spaziale cinese. Da lì è diventato sempre più potente e racconta il Corriere l'incontro c'è stato al Dipartimento di Stato americano tra lui e Tronchetti Provera 3 anni fa, e ci sono voluti 3 anni di approcci, di colloqui, di incontri per arrivare alla firma e all'ingresso come socio di maggioranza in ChemChina. È pronta l'OPA a 15 euro, titola Repubblica. C'è anche un'intervista a Giuseppe Berta, che è storico docente della Bocconi, e racconta come cambierà la struttura economica di un'azienda che ha fatto e fa la storia dell'Italia. Cambia quello, mentre ragazzi qui sembra la 99esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Eccoci qua, province, la mobilità slitta, mancano le liste dei dipendenti, pagina 8 del Messaggero. Il 1 aprile era la data entro la quale le province dovevano mettere la lista degli esuberi dei dipendenti perché venissero spostati poi nelle regioni. Nessuna provincia, fa sapere il Messaggero con Luca Cifoni, nessuna rispetterà questa data del 1 aprile. La riforma è ancora in ritardo. E Ale, andiamo sul Fatto Quotidiano, 2 pagine, province abolite per propaganda, costeranno di più. Il miliardo di euro che Renzi aveva preventivato di risparmiare in realtà ha provocato caos e incertezza. Emiliano Liuzzi, la riforma alla fine costerà di più, dice il Fatto Quotidiano, questi cattivoni del Fatto Quotidiano. Comunque, la 99esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è appena cominciata, abbiate fede, abbiate fede. Oh, noi parleremo di Tunisi, del timore, il timore che c'è anche in Italia per molti di attentati. Tra l'altro il settimanale Terra su Rete 4 oggi ha trovato un documento che verrà mostrato questa sera. Nuove minacce in Tunisia, il documento suona così: trovato in Tunisia, fatto ed attribuito allo stesso gruppo di comando di 3 persone almeno, una in fuga, che hanno fatto l'attentato al Bardo, al Museo del Bardo. E in questo documento si legge: colpite ancora con qualunque mezzo i turisti. Fratelli musulmani, investiteli con le auto, affogateli in mare, sgozzateli in spiaggia, meglio se americani, britannici, francesi e israeliani. Questo è il documento che il settimanale Terra ha trovato e verrà oggi mostrato. Oggi è il titolo di tutti i giornali: sgozzate i turisti in spiaggia, Tunisi è caccia anche al terzo terrorista, ma spunta questo documento shock. C'è davvero il timore, si legge da giorni, il Viminale, il ministro degli interni, dice c'è il timore che succeda anche questo in Italia. È chiaro che messa lì così, buttata lì, è una frase che crea davvero tanto scompiglio. Ne parleremo alle 8.15. Ci sarebbe molto da raccontare, ma il tempo non c'è. E allora c'è solo il tempo per la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi il giornale con Giacomo Susca dedica una pagina intera. Una pagina su Daria Birignao, che sarebbe poi Daria Bignardi, che ha stufato, perde gli ascolti e prepara l'esilio dalla TV. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, alle 8:20, quando la 99esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province ormai in pieno corso, e lo sapete, che dire, tutto questo appare un po' una barzelletta. Non è invece una barzelletta il timore, le paure concrete che hanno molti italiani, parlando con molti amici nel weekend, l'ho potuto constatare con mano, del cosiddetto terrorismo, della paura del ISIS, no, di questa sigla entro cui racchiudiamo tante cose diverse. D'altronde gli attentati di Tunisi sono lì, avete sentito, c'è anche questo documento che è apparso, scoperto dal settimanale Terra, in cui si raccomanda di uccidere, sgozzare ancora i turisti, affogarli, ucciderli in tutti i modi, questo in Tunisia. D'altronde che il Ministero dell'Interno dice: guardate che c'è il rischio di emulazione. Che vuol dire il rischio di emulazione? Vorrei capirlo, cioè mi inquieta un po'. Vuol dire che ci sono delle persone pronte a colpire in Italia? Ci dicono siamo in guerra da due giorni. Ma che vuol dire siamo in guerra? Il ministro degli esteri Gentiloni fa un appello che è questo, e suona più o meno così. Una minaccia terroristica che è una minaccia evidente, e non c'è dubbio che questa minaccia richiede dal punto di vista parlamentare una risposta ferma e unitaria. Uniti, ma insomma, comunque, quando ci sono attentati di questo tipo, a Parigi ma anche in Tunisia, io scrivo su Twitter una frase che suona più o meno così. Voi conoscete oggi, non parlatemi delle crociate, oggi nel 2015, cristiani, buddisti, ebrei, confucianesimi, non so come si dice, insomma esponenti di qualche religione che uccidono persone perché li considerano infedeli? Lo so, è una frase forte, una frase che mi attira sempre molte critiche, molte accuse di razzismo, islamofobia, insomma queste cose qui. È una frase in realtà che vogliamo partire forse da questo presupposto, a dire: abbiamo un problema legato ad alcuni fanatici, alcuni, pochi o tanti che siano, ma fanatici che uccidono in nome del Corano? Saranno pochissimi, fortunatamente, ma abbiamo questo tipo di problema, oppure è un problema che vogliamo rimuovere? Chi pensa certamente che questo problema ci sia è Magdi Cristiano Allam, che saluto, buongiorno. Alessandro, buongiorno. Tra l'altro da poco hai scritto questo libro, Il Corano spiegato, da Magdi Cristiano Allam, cioè una lettura del Corano. È un'impostazione esagerata? Tu dirai di no sicuramente, però è un'impostazione forse anche dei problemi, è un'impostazione errata questa, buttarla subito sulla religione? No, è una impostazione corretta, conoscendo che il Corano per i musulmani è l'equivalente di Gesù Cristo per i cristiani, cioè per i musulmani l'Islam è la religione del Dio che si è fatto testo e che si incarta nel Corano, concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, è un archetipo celeste che è sempre esistito ed è della stessa sostanza di Allah. Però quindi non tutti i musulmani, sappiamo ci sono società laiche, no, voglio dire, non tutti i musulmani seguono pedissequamente il Corano. Sto parlando del Corano, poi bisogna distinguere tra le persone e la religione, bisogna prendere atto che non tutte le persone sono la trasposizione automatica e acritica dei dogmi della religione, ma sicuramente tutti coloro che oggi perpetrano attentati terroristici lo fanno nel nome di Allah, nel nome del Corano, e evidenziano versetti coranici che sono inequivocabilmente corretti. Cioè c'è quello che io ho voluto riportare nel frontespizio del libro e del versetto 12-17 della sura ottava del Corano, dove Allah stesso dice: getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, cioè decapitateli. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Si è detto molte volte, Allah, che però anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento soprattutto, ci sono dei richiami molto molto violenti, no? Sono libri che sono stati scritti molti anni fa. L'hai detto tu stesso poco fa, non c'è oggi nessun ebreo, cristiano, buddista o di altre religioni che uccide nel nome del proprio Dio, cosa che invece avviene nell'Islam, perché mentre nelle altre religioni sono testi che vengono concepiti e scritti da persone seppur ispirati da Dio, nel caso dell'Islam il Corano viene concepito come Dio stesso, Allah stesso, questa è la differenza. Quindi i cristiani che hanno perpetrato dei massacri, e ci sono stati questi massacri, lo hanno fatto a dispetto di ciò che è scritto nei Vangeli e sicuramente contrariamente all'esempio di Gesù Cristo. Viceversa, i musulmani lo fanno temperando letteralmente a ciò che è scritto nel Corano. Questa è la differenza, fondamentale. Però Magdi Cristiano Allan, voglio presentare un onorevole italiano, nato a Casablanca, lo abbiamo conosciuto tante volte, è con noi ancora Khalid Shawki del Partito Democratico. Buongiorno Khalid, benvenuto. Buongiorno. Questa impostazione è un'impostazione che so rifuggi, non ti sta bene. Che cosa c'è di questa impostazione di fallato secondo te? Ma due cose. La prima è che se fosse vero quello che dice Magdi Cristiano Allam, 1.600.000 musulmani sarebbero tutti dei potenziali terroristi, cosa che non è, perché la storia dell'Islam e più di 10 secoli di storia dimostrano che invece sotto l'Islam, sotto alcuni califi illuminati, invece si realizzò il più grande modello di convivenza multireligiosa, e quindi non possiamo dire che chi oggi è per la pace non rispetta il testo del Corano. Il problema vero è che, come per gli altri testi religiosi, c'è un problema grande come una casa, una malattia dentro il mondo islamico, che riguarda il tema della interpretazione, un testo sacro che purtroppo decine di studiosi, di imam, hanno tentato di interpretare alla luce della modernità e hanno pagato con la pelle, con la vita, questo sforzo. Oggi ci sono tanti musulmani che vivono coerentemente con la loro interpretazione del Corano in pace con gli altri, e lo dimostrano i numeri, altrimenti saremmo davvero a una guerra di tutti contro tutti. E quindi è sbagliato dire che il Corano è un messaggio di violenza e di guerra. Il Corano è un testo sacro come tutti i testi, che deve essere riletto alla luce della modernità, in cui ci sono dei passaggi che ovviamente erano legati a un contesto storico che oggi non ci riguarda più come per gli altri testi sacri, e quindi faremo giustizia a raccontare invece perché l'altro milioni e milioni di musulmani vanno in moschea, pregano, ma non si fanno saltare in aria. Evidentemente c'è un problema serio interno al mondo islamico, in cui ci deve essere una condanna di quella che non è sicuramente una deriva solo terroristica, no, ma è una deriva che si rifà a una lettura sicuramente distorta del Corano, ma che non riguarda la maggioranza, e non è che chi oggi non è terrorista non applica il Corano. No, ma infatti è quello che dico, che ho detto io anch'io in inizio, cioè saranno pochi, saranno tanti, non lo so, spero che siano sempre di meno, ma c'è purtroppo un fanatismo religioso che porta soprattutto ad avere problemi per quella religione lì in questo momento. Cioè dobbiamo fronteggiare questo tipo di emergenza. Però Shawki, quando leggo c'è il rischio emulazione, che cosa vuol dire? Perché da parlamentare una risposta anche di rassicurazione ai nostri cittadini bisogna darla. Ma l'anomalia che noi abbiamo oggi di fatto è che il pericolo non viene solo dall'ISIS, dall'Iraq, dalla Siria o dalla Tunisia, che ha esportato più di 4.000 jihadisti nelle file dell'ISIS. Il problema vero è che noi abbiamo effettivamente un rischio interno in Europa e ovviamente anche in Italia di tanti giovani, insomma giovani che purtroppo per varie ragioni che magari potremmo discutere, oggi vedono con simpatia questo messaggio di estremismo, di violenza, di fondamentalismo, e quindi va fatta molta prevenzione, va tenuto altissimo l'allarme e soprattutto quello che dico sempre, serve oggi una reazione visibile, forte da parte dei tanti musulmani che vivono tra di noi, perché il rischio è che appunto nelle sacche di paura, di ambiguità, di timidezza ci possa essere chi invece può oggi voler appunto chi abbraccia quella causa, spazio, è chiaro, abbraccia quella causa e prendersi uno spazio in quello che l'ISIS oggi offre come piattaforma di guerra globale. Per esempio nei giorni scorsi è stato arrestato, a me ha molto colpito, è stato arrestato un pakistano, vorrei chiedere ad Allah, è stato arrestato un pakistano che è stato accusato dal Ministero dell'Interno e per questo espulso di simpatie e di propaganda jihadista su internet. Ieri mi risulta, o due giorni fa a Brescia, c'è stata una manifestazione sfociata anche in violenze per in qualche modo difendere da parte di qualcuno i diritti di questo pakistano a non essere espulso. Comunque, Magdi Cristiano Allam, dobbiamo preoccuparci? C'è qualcuno in Italia in questo momento che briga contro di noi? Assolutamente sì. Noi dobbiamo prendere atto del fatto che a livello globale c'è una guerra che ci è stata imposta, sferrata da un terrorismo islamico che è globalizzato e noi dobbiamo oggi difenderci, e difenderci significa dobbiamo intercettare tutte quelle realtà che possano da un momento all'altro diventare una realtà che si traduce in attentato, e non possiamo attendere l'ultimo istante. Cioè noi, è sbagliato immaginare che questo terrorismo lo si possa eliminare solo intercettando l'attimo prima che imbracciano un Kalashnikov, che hanno in mano una bomba, o nel momento in cui stanno per farsi esplodere con una cintura esplosiva. O noi interveniamo prima, nella fase in cui avviene il lavaggio di cervello che trasforma delle persone in bombe umane, o non riusciremo mai a scardinare questa realtà, anche perché è una realtà, così come insegnano gli eventi di Parigi, di Copenaghen e di Tunisi e anche di Sana'a nello Yemen, che è una realtà che opera attraverso terroristi autoctoni, sono nativi nei rispettivi paesi, colpiscono i propri paesi, quindi è un terrorismo endogeno, è un terrorismo microcellulare formato da piccolissimi gruppi, e questo rende impossibile prevenire gli attentati perché non lasciano tracce, certo. Così come rende impossibile scardinare tutta la filiera, perché sono terroristi votati al loro martirio, quindi quando muoiono non si è più in grado di, e loro si fanno intenzionalmente uccidere, non si è più in grado di, come dire, arrivare alle complicità. Però un punto fondamentale è questo, Allama. Come ha detto Shawki, non ci sono, e fortunatamente, ed è così, 1.600.000.000 di musulmani che interpretano in questo modo il Corano e colpiscono. Quando si parla di ragionare con l'Islam moderato, perché tu ritieni che non ci sia un Islam moderato? No, allora io ho detto chiaramente nel mio intervento che noi dobbiamo distinguere tra le persone e la religione. Allora, tra il 1.5 miliardi di musulmani nel mondo, l'80% non sono arabofoni, quindi il Corano non sono neanche in grado di leggerlo, e il contenuto coranico gli viene trasmesso attraverso la mediazione di religiosi, e quindi il contenuto dipende dall'approccio ideologico di questi mediatori, di questi interpreti. Ma anche il 20% di arabofoni, gran parte di loro non conosce l'arabo classico antico con cui è scritto nel Corano. In realtà è solo un'elite quella che è in grado di leggere e di comprendere il testo originario del Corano. Questo è un punto importante. Poi ha ragione Shawki quando dice, guarda le posizioni, che ciò che stai dicendo, Shawki, ora era quello che io dicevo per 56 anni prima della mia conversione. Ci sono state delle scuole religiose e dottrinali e filosofiche islamiche che hanno cercato di affermare la tesi del Corano creato, non increato e pertanto interpretabile, a partire dalla scuola mu'tazilita dell'VIII secolo. E hai detto bene che purtroppo hanno tutti fatto una brutta fine, da Averroè fino al sudanese Mahmoud Muhammad Taha. Quindi dobbiamo però prendere atto, Shawki, che oggi la maggioranza dei teologi islamici è per il Corano creato, è per una interpretazione letterale e questo, del Corano. E questo crea il problema. Shawki, come si risponde a questa emergenza che Allam ci fa notare? Pronto? Sì. Sì, no, io credo su questo non posso concordare. Cioè, noi non possiamo lanciare allarmi e non proporre invece quello che già c'è di soluzioni di alleanza con quella parte sana. E per me è una maggioranza silenziosa di musulmani che subisce oggi il terrorismo, perché la Tunisia oggi è un paese musulmano e subisce per primo il terrorismo di questi criminali. Quindi vuol dire che in questa lettura c'è una parte di verità, c'è un problema grande, come ho detto, di interpretazione dentro l'Islam, però ci sono tanti musulmani che hanno sfidato oggi questa violenza interpretando e proponendo un modello diverso di essere musulmani, coerente con un'interpretazione del Corano giusta, pacifica, non violenta. E quindi non penso che noi non abbiamo nessun interesse a ignorare o chiudere gli occhi di fronte invece ai modelli che ci sono oggi di convivenza. E soprattutto in Europa, ed è quello che mi interessa, noi dobbiamo davvero aprire gli occhi di fronte a una nuova generazione, a giovani che abbiamo tutto l'interesse di includere, a farli sentire a casa propria e soprattutto a decidere insieme che ci sia una volta per tutte un modello di Islam compatibile con i valori delle nostre società. Oggi questi giovani noi non dobbiamo ritenerli estranei da noi e quindi lasciarli in mano l'esclusione rischia di creare proprio questo proselitismo con la propaganda. Il mio appello ai media però è quello anche di raccontare quello che sta succedendo in queste ore in questi paesi, cioè in Tunisia non è di oggi. No, ma infatti tra l'altro, Shawki, no, fermati un attimo, perché noi proprio dopo la pubblicità saremo in collegamento con Saad Ibrahimi, che è un imprenditore italo-tunisino, vive in Italia, si è anche candidato in Parlamento per la Tunisia, è tornato dalla Tunisia proprio ieri e ci potrà raccontare qualcosa anche di questo paese, insieme a Magdi Cristiano Allam e l'onorevole Khalid Shawki. Allora, alle 8:41 minuti con noi ci sono Magdi Cristiano Allam, c'è l'onorevole Khalid Shawki del Partito Democratico. Voglio dare però anche il benvenuto a Saad Ibrahimi, io spero ovviamente con le pronunce di cavarmela almeno un pochettino. Buongiorno e benvenuto, è un imprenditore che vive da tanti anni in Italia, ma è stato anche eletto parlamentare in Tunisia. So che c'è una vicenda però controversa di contestazioni, ma non importa in questo momento. Quello che importa è che lei è appena di ritorno dalla Tunisia. Sì, intanto questo documento che non so se hai già visto, i giornali italiani parlano di un nuovo documento che viene attribuito a coloro che avrebbero anche colpito, alla cellula che ha colpito al Museo del Bardo, a dire colpite ancora i turisti, uccideteli in qualsiasi modo. È un documento di cui si sa qualcosa, se ne parla in Tunisia? Sì, si parla. Buongiorno tanto alle nostre tutti ascoltatori, grazie alla vostra disponibilità. Io ho sentito ieri alla giunta alcune voci, però comunque voci disperse, non sono voci confermate. No, cioè, non sono voci confermate, sono voci di della strada, del bar. L'unica cosa è che il paese è scioccato da questo atto terroristico. E per i innocenti, i genti ospiti, e noi siamo una società che è abituata sempre a accogliere, la Tunisia è conosciuta nella sua ospitalità. Solo che non è, ho letto il giornale italiano ieri, alcuni cittadini tunisini dicono che non è un paese tranquillo, come una sorpresa. Non è vero niente. Non è una sorpresa. Non è una sorpresa. Tutti i soldati sguazzati. Anche stamattina una bomba è stata esplosa sul confine dell'Algeria, 10 soldati morti. Il parlamentare Shokri Belaid è stato assassinato il 6 febbraio, non è una sorpresa. Mio fratello, il professor Mohamed Ibrahim, è stato assassinato il 25 luglio. Sì, esatto, 2013. Io questo non l'ho detto, lei ha avuto un fratello ucciso da... Sì, un parlamentare è stato ucciso il 25 luglio. E le armi che si trovano dappertutto della Tunisia, in qualsiasi quartiere della Tunisia è pieno di armi. Però Saad Ibrahimi, le faccio questa domanda perché è stata un po' l'impostazione della puntata di oggi. È un problema legato alla religione, all'estremismo religioso, come ci sta dicendo Magdi Cristiano Allam? Assolutamente no. No. Lei tutti dice questi atti terroristi che sono legati a delle bande armate che hanno interesse di mischiare tutto il Nord Africa, e è un progetto, le dico francamente, la realtà, l'abbiamo, io l'ho detto il 2011 sul giornale, ce l'ho ancora scritto, è un progetto dell'Arabia Saudita e la Turchia per poter, deviare la rivoluzione, o così chiamata primavera araba nel paese arabi. Però questi che colpiscono e dicono abbiamo ucciso un crociato, l'ha visto anche lei, no? L'italiano, il povero italiano che era in crociera lì a divertirsi, a rilassarsi, a godersi un po' di tempo libero, e che viene dipinto su Twitter con la croce, abbiamo ucciso un crociato, che cos'è? Ovvio. Questa vivi, anche il Muhammad, Ibrahim Muhammad, il mio fratello, ha detto l'abbiamo ucciso un non è un crociato, uno è contro l'Islam, che è un pellegrino che rispetta la religione, che prega 5 volte, eccetera, eccetera. Non è questo. Soltanto il problema è qua. Il problema è che la religione è un argomento molto delicato. Molto delicato. E loro non usano la religione soltanto come una copertura, invece a fondo è un processo politico. È un processo politico. Questa è una lettura interessante. Allam, hai sentito, per Saad Ibrahimi è più una questione politica. A me sembra che ci sia tanta confusione. Mi sentite bene voi? Sì, benissimo. Sì, tanta confusione. E capisco la necessità di salvaguardare quella che è l'onorabilità di persone moderate, di persone rispettabili, che pertanto non vogliono che, individuando nell'Islam la radice che legittima il terrorismo, possa questo ritorcersi anche contro di loro. Però non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quello che c'è scritto nel Corano, e soprattutto sul fatto che quello che c'è scritto nel Corano è quello che porta queste persone ad aspirare al martirio. Cioè, noi siamo di fronte a delle persone che rappresentano dei nemici, da un lato impari, perché quando ti trovi di fronte a una persona la cui massima aspirazione è il martirio, ti trovi disorientato. Sì. Dall'altro, concretamente, loro lo fanno. Quindi c'è un lavaggio di cervello, il versetto coranico... Sì, però Allama, questo discorso porta a individuare in ogni musulmano un potenziale pericolo. No, assolutamente no. Ma uno come fa? Potenzialmente uno come fa a distinguere allora quello che non è indottrinato da quello che non lo è? Io sono stato musulmano per 56 anni. Sì. Allora, il musulmano che fa prevalere la ragione e il cuore, per cui la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra le persone, la libertà di scelta, sono valori inviolabili, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, è sicuramente un musulmano con cui si può dialogare e convivere. Il musulmano che invece deve sempre fare riferimento al Corano e a Maometto prima di parlare e soprattutto prima di agire, ebbene, questo ci obbliga a leggere ciò che è scritto nel Corano. E se nel Corano, per esempio, noi troviamo scritto: Allah ha comprato dai credenti le loro vite e i loro beni, dando in cambio il paradiso, poiché combattono sul sentiero d'Allah, uccidono e sono uccisi. Questo è il versetto 111 della Sura 9 del Corano. Noi non possiamo prescindere da questo e non capire che sulla base di questi versetti che viene praticato il lavaggio di cervello che trasforma queste persone in terroristi. Questa è chiaro. Saad Ibrahimi, che cosa c'è da contestare di questa impostazione di Allah? Io sono nato musulmano e sono ancora musulmano e rimarrò musulmano e difendo l'Islam vero. Io quanto leggo sul Corano che l'Islam è la solidarietà, l'Islam è aiutare i poveri, l'Islam e il signor Majdi Allam, se lui è stato musulmano, io lo rispetto almeno sul suo punto di vista, se lui si ricorda la prima costituzione nella Mecca, cosa ha detto Muhammad, che è il profeta dei musulmani, che adesso purtroppo vogliono tutti uscire oppure negare la verità dell'Islam. Il primo statuto, costruzioni dell'Islam che è guidato il profeta Muhammad alla Mecca, cosa dici? Al Medina, cosa dici? Ce lo dica lei. Rispetto di tutte le altre religioni. Loro moglie, loro soldi, loro donna, i bambini, uguali a tutto quanto. Non ha detto che dovete alzare la spada e uccidete gli altri. Poi, quando vedo la maggior parte, l'80% degli imam, l'80% degli imam condannano questi atti terroristici del Torre Gemelli fino ad oggi, io non credo che questi sono dei musulmani o hanno un Islam diverso dall'Islam vero. Esiste però, Brami, per concludere, un problema con una stretta minoranza di fanatici che interpretano il Corano in modo diverso? Ma esiste, io non lo sto dicendo che non esiste, se no siamo vittime da questa minoranza. Chiaro. Noi siamo, esiste, se non esiste non siamo qua parlando di questa qua. Però questa qua, vi assicuro, non è questo l'Islam vero. Non è questo l'Islam che abbiamo imparato e abbiamo in mano. Poi ci sono delle versette, come dice il signor Allah, è vero, però vuole dire, vedi anche le altre interpretazioni. Poi l'Islam, quando è nato il Corano 1400 anni fa, certo. C'è un altro modo, c'è anche la tolleranza, eccetera. No, ma infatti il problema è proprio questo. Non sto difendendo che questi terroristi No, questo no. Questi qua, loro mettono una bandiera della religione, invece sono fuori. Mm-hmm. Io vi assicuro che la maggior parte da questi dirigenti di Daesh, che sono Daesh, Stato islamico, questa qua è chi trovano anche da noi dappertutto del paese arabi. La maggior parte non rispettano un centesimo, un punto dell'Islam. Bevono, vanno con le donne degli altri. Dove esiste l'Islam che le donne vanno a prostituire? No, dove ma esiste è chiaro. L'Islam che le donne vanno vendute, svendute in Iraq a $80? Il dibattito ovviamente potrebbe continuare e non è escluso che lo rifaremo. Io mi spiace anche per l'onorevole Sciauchi, non ho più spazio, devo dare il traffico. Ringrazio Magdi Cristiano Allam, ricordo il suo Corano spiegato da Magdi Cristiano Allam. Ringrazio Sciauchi e Sadi Brami, imprenditore e membro della corrente popolare tunisina, eletto al Parlamento tunisino. Torneremo su questo argomento perché poi, come sapete, è un discorso sulle religioni, ma poi concretamente riguarda anche tutti noi e la vita di tutti noi, il traffico e poi i nostri lavoratori. Lavoratori, chi non lavora, continuano ad arrivarci tante mail sui lavori che ci devono incuriosire a 24 mattino et radio24.it. Oggi voglio salutare Emilio, mi hanno detto che è emozionato. Emilio, non emozionarti, siamo qua tra amici. Buongiorno Emilio. Buongiorno. Emilio si è inventato una cosa incredibile. Avete presente, se entrate nelle scuole dell'infanzia, le scuole materne, nei campi, nei giochi, no? nei campi per bambini, dove giocano i bambini, ci sono quelle casette, no? Emilio, quelle casette dove i bambini entrano, si divertono. In che materiale sono? Ma io ho preso i bussolotti della raccolta rifiuti, quelli che c'erano in giro per la raccolta vetro, e li ho trasformati, stanificati, messi a posto e faccio queste casette simpatiche, ecologiche, di recupero. Cioè, fammi capire, tu ti sei inventato questa cosa, dai cassonetti dei rifiuti li raccogli? Quelli di vetroresina che non sono più smessi, raccolta vetro, raccolta carta. Li trasformi in casette per far giocare i bambini, quelle che si trovano nei parchi giochi. Ma come ti è venuta in mente questa idea? È venuto in mente tantissimi anni fa, poi la crisi, e 2 anni a casa senza lavoro, e ho detto vi devo tirar fuori, visto che ho un sogno, vediamo se riesco a realizzarlo, e con l'aiuto di qualche amico, qualche persona, sono riuscito a fare dei prototipi, vedere che piace. Siamo riusciti a certificare il tutto, perché devono essere fatte ASL, significati, certificati della TU e cose varie, perché anche perché il pubblico sto puntando tanto con le amministrazioni, che per mia fortuna, al di là di quello che si vede, c'è tanta solidarietà da parte mia. Cioè, dal raccolto dei rifiuti tu lo trasformi in un sogno per i bambini. Emilio, sogno per i bambini. Ma tra l'altro, purtroppo Il mio sogno è quello di creare metà gioco, nel senso, ho fatto l'officina meccanica, la parrucchiera, aiutare il bambino a giocare, perché io amo i bambini. Però insomma, il mio sogno è quello di vedere questi parchi colorati con queste casette di qualità. Emilio, è fantastico. Tu tra l'altro ci hai mandato delle foto che pubblicheremo oggi sul nostro sito radio24.it, tutto rinnovato, quindi le possiamo vedere. Purtroppo non ho tempo, ma hai un sito, qualcosa dove ti si trova? Beh, no, mi trovate guardi su Facebook, sotto Emilio Milani e le sue casette, e al momento aspetto aiuti per mettere in moto anche un sito. Ma vedrete, vedrai che ce la farai, Emilio, ti ridaremo spazio, perché adesso non c'è tempo, purtroppo devo chiudere, a domani, ma torneremo con Emilio, a domani. Scusi, che lavoro fa lei? Collaudatore industriale. Oggi ho collaudato un attrezzo ginnico e un water con tavoletta termica per i giorni freddi. 24 mattino.